Ok. Allora, innanzitutto ti chiederei di dirmi, cioè, da che famiglia vieni, di che anno sei, insomma, un po' quel tuo retroterra sociale e politico, insomma. 1946, vengo praticamente, stavo prima in Calabria, ho fatto i primi anni, cioè tutte le elementari, medie, fino al secondo liceo in Calabria. Poi sono stato respinto, sono venuto qui a Roma in collegio, ho finito il liceo, poi mi sono iscritto a medicina e poi ho iniziato a lavorare al policlinico come tecnico di istologia. Poi sono arrivato agli ultimi esami di medicina con una media del 28, ma ho fatto scadere 8 anni proprio perché ho rifiutato di appartenere alla categoria dei medici, quindi con la regola che avrei dovuto ricominciare da capo, e ho cercato di cambiare la situazione sanitaria. Per un periodo ci siamo riusciti al policlinico, poi non l'abbiamo più, diciamo così, potuta portare avanti, e per motivi repressivi e per motivi più complessi, e niente. E mo sto qui a Roma sempre, faccio a spola con la Calabria, a Roma lavoro nel quartiere, comitato del quartiere, nel sociale, centro sociale, l'ago, insomma quello che è più possibile, cercare di cambiare le cose dal basso. Quindi nel stanzetto eri ancora studente, già lavoravi al policlinico? Nel 77 ero studente, quindi avevo già fatto scadere gli 8 anni. Comunque, diciamo, io da quando ho iniziato a fare la lotta al policlinico, cioè anno 72, 73, 74, non ho più fatto gli, cioè ho deciso di non partecipare più cioè di non laurearmi più, proprio per una scelta specifica che non mi andava di appartenere alla categoria dei medici, invece di restare appartenente alla categoria dei lavoratori. Ho capito, ma avevi altre esperienze politiche pregresse, cioè prima. No, non avevo nessuna esperienza politica pregressa. In Calabria facevamo niente, iniziative così, un po' di incazzatura dei ragazzi, ma senza capire niente di politica. Ho cominciato a capire qualcosa di politica a Roma, con un gruppo giovanile che era legato a una parrocchia. Poi abbiamo litigato anche là, abbiamo capito che ai preti non gli fregava un cazzo dell'egualitarismo, ma era solo una cosa strumentale di facciata. E poi c'è stato il 68, abbiamo cominciato a partecipare all'Assemblea del 68, mi sono reso conto, mi sono pian piano politicizzato e basta. Hai fatto qualche esperienza nei gruppi, lotta conti, No, PC, nessuno. niente? Diciamo che come comitato di Via dei Volsci, come comitato autonomo operai, quando nel 70 abbiamo fondato Via dei Volsci, abbiamo iniziato a lavorare col manifesto, non eravamo del manifesto, ma lavoravamo con loro perché li ritenevamo i più vicini alle nostre posizione di volontà di cambiamento di massa, riprendendo la tradizione storica del Partito Comunista. Ho capito. Senti, ti ricordi quando nasce la radio, no? Nel maggio 77, ci sono state assemblee precedenti, cioè come avete iniziato a lavorare a questa idea? Beh, la radio praticamente era stata per noi sempre un'opzione, diciamo, molto presente. Noi volevamo assolutamente dar vita a un qualche forma che parlasse, amplificasse, spiegasse le cose che facevamo, e ritenevamo che se tu fai una lotta, fai un'azione, diciamo, vincente da un punto di vista di cambiamento di rapporti di forza, di cambiamento di modi di vita delle persone, se poi non la discuti, non la diffondi, non la fai comprendere alla stragrande maggioranza delle persone, c'è un valore molto inferiore a quella che appunto fai direttamente sul posto e basta, capito? Quindi per noi l'opzione radio, poi considera che c'era già Radio Città Futura e Radio Città Aperta, quindi praticamente per noi dar vita a una radio di movimento vero, non di gruppi o di qualche, diciamo così, intellettuale illuminato che si prodigasse per diffondere le istanze di movimento era molto più importante, cioè una radio costruita direttamente dalla situazione di lotta, di questo era il nostro obiettivo. E volevamo arrivare anche presto a una televisione, poi perché in quel periodo c'era una liberatoria, eccetera, quindi diciamo c'avevamo già anche gli strumenti e tutto quanto, ma poi ci hanno arrestato prima, a me mi hanno arrestato prima e non siamo riusciti a attuarlo. Quando avete iniziato a pensarci a fare una radio? Ti ricordi più o meno l'anno, le assemblee No, preparatorie? l'anno ti direi una cazzata. Diciamo comunque è stata sempre presente nella nostra militanza politica, la nostra attività, l'idea di avere comunque un elemento, ti ripeto, appunto di allargamento della lotta e di far conoscere, ma più che altro anche, non era solo una questione di propagandare la lotta FI, quanto quello di interloquire con le persone e capire cosa volevano, come stanno le cose, che tipo di sensazioni c'erano e quindi in base a questo essere più possibili coerenti con le istanze volute dalla maggioranza delle persone. Senti, dal punto di vista tecnico, cioè strumentazione, c'è cioè qualcuno che ne capiva qualcosa, No, come... all'inizio ci siamo affidati a un tecnico di radio radicale, poi a uno che ci ha venduto alcuni pezzi, al trasmettitore. E poi i compagni Alvaro, Guido Bellachioma, cioè insomma, i compagni che bazzicavano un po' i movimenti musicali, eccetera, che avevano più dimestichezza con l'elettronica e quindi diciamo che loro poi hanno fatto da esperti, insomma, quindi man mano discutevamo. Si decideva cosa comprare, che diciamo noi gestivamo moltissimo le trasmissioni dirette, i dibattiti in diretta, capito? Quindi per noi avere una radio che potesse far sentire bene quelli che stavano in studio e nel suo tempo passare le telefonate in maniera diciamo comprensibile, con volume pieno, era fondamentale. Quindi insomma non avevamo grandi pretese. Poi con la musica eccetera, insomma lampadina, tutte quante queste persone che si esprimevano di più con il livello musicale, le esigenze sono aumentate, sono cambiate anche come cose. Ma all'inizio noi avevamo solo dei bisogni base di mandare avanti i dibattiti, ecco, le discussioni. Senti, come lavoratore del policlinico che spazio avevate in radio? Ho fatto tutto, dalla tappezzeria all'idraulica, all'elettricità, alla muratura, tutto, ho fatto tutto, anche fatto con le nostre mani. Curavamo Curavate anche una trasmissione? anche delle trasmissioni, sì, spesso dei dibattiti, delle trasmissioni dirette sulla lotta al policlinico, sulla lotta in quartiere, le autoriduzioni, l'occupazione delle case, livelli culturali, cioè diciamo non avevamo dei settori segmentati su cui uno era esperto o no, ma cercavamo di imparare, di capire, diciamo chi ci ha dato una grandissima mano e che ha dato un'impronta caratteristica alla nostra radio è stato, noi lo chiamavamo il Granduca, cioè un compagno che era latitante e che era legato alle esperienze, saltava comunque le esperienze dell'ironia degli indiani metropolitani e che facevano queste trasmissioni la mattina molto molto ascoltate, molto belle, insomma, molto, e quindi per noi quello più o meno rappresentava un po' l'emblema delle trasmissioni radio. Poi c'era Lillo che era bravissimo nei dibattiti, riusciva a far parlare a tutti senza rompere il cazzo, metti il cappello sopra. Alvaro che era un ottimo tecnico, ci stava coso, faceva controimmagine, che era Alfio. Alfio, che era un enorme comunicatore in grado di farti vedere col cervello, anche farti vedere le cose che lui commentava sulle fotografie, diciamo. Insomma, ci abbiamo avuto, c'era Renatino del Policlinico, che era un'altra persona in gamba, molto, molto brava alla romana, insomma, diciamo Carlo Dulli, cioè ci abbiamo avuto tutta la gente anche di San Lorenzo, tanto è vero, mo ti dico, Io personalmente non ero d'accordo su chiamarla Radio Onda Rossa. Io la volevo chiamare Radio Serafina, non perché era un nome così di qualche... perché era il nome di una signora molto anziana di San Lorenzo, con la quale noi ci eravamo interfacciati a Via dei Volsci, e che secondo me rappresentava la saggezza storica di quella comunità dei San Lorenzini, delle donne incazzate del quartiere. E quindi per me la radio doveva fin dall'inizio avere un ruolo non tanto di indicare la strategia politica diciamo ai compagni, ma quanto quella di far coagulare l'incazzatura e farla esprimere organizzandola e strizzicandola, portandola di fuori, facendola venire fuori, facendola diciamo scoppiare. E quindi questa cosa mi piaceva. Poi sono stato messo in minoranza perché tutti erano per la un po' per avere un pedigree, una cosa, il cazzo c'entra, Radio Serafina, chi la conosce, okay, non si capisce, Onda Rossa, sempre rosa, vaffanculo. Che altri nomi uscirono per... Che altre proposte di nomi uscirono? Ti ricordi? Non mi ricordo se uscirono anche altre cose sul classico, diciamo, sulla linea ML, potremmo dire. No, io mi ricordo queste due... Sicuramente usciranno altre opzioni, però non mi ricordo queste due. All'assemblea preparatoria, no? Prima ancora del maggio 87, chi partecipava? Cioè, c'erano i comitati di operai naturalmente, ma erano solo loro? No. Noi, allora, tieni presente questo. Noi non abbiamo mai puntato ai comitati autonomi operai. Difatti noi non ci chiamavamo nessuno. Noi ci chiamavamo Via dei Volsci. Perché? Perché appunto... non volevamo essere un gruppo, volevamo essere una struttura assolutamente di base, e quindi Via dei Volsci era l'indirizzo della sede dove abbiamo affittato quel locale, e quindi per noi non c'era una comitato di base, comitato autonomo operaio, cioè questa era la nostra sigla, era assolutamente, diciamo, non determinata, non definita, e l'obiettivo nostro era quello di cercare di appunto rappresentare un punto in cui tutti i comitati sciolti si aggregassero, discutessero, elaborassero una loro strategia e andassero avanti nelle lotte. Diciamo, noi avevamo più o meno un'impostazione, diciamo, più o meno insurrezionale, nel senso che noi ritenevamo che man mano che si allargava la consapevolezza, si allargava l'incazzatura, veniva il momento in cui la gente era in grado anche di ribaltare i rapporti di forza in maniera massiccia, in maniera insurrezionale. Ecco, questo era più o meno il nostro ideale, il nostro tentativo continuo, quindi sia con l'occupazione delle case, sia con le lotte dei lavoratori, con gli studenti, con i fuorisede, con le varie situazioni, diciamo così, che si presentavano, come disoccupazione, come emarginazione, eccetera. Per noi c'era sempre questo obiettivo di prendersi il territorio, prendersi, soddisfare i bisogni che ci avevi e avere una organizzazione in grado di permettere alle persone di fare un'attività vera, reale, per quello che desiderava, per quello che voleva, senza sfruttamento, senza sovrastrutture, e quindi dar vita a delle forme di società in grado di dar più soddisfazioni che dolori, che danni, insomma. Quindi questa era la nostra... E la radio serviva a questo? Cioè... La radio serviva a questo, era semplicemente un progetto che serviva a far funzionare questo tipo di... Quindi insomma partecipano alla radio altre realtà, altre strutture oltre voi? Cioè... Noi abbiamo, difatti, la nostra radio, guarda, parliamoci chiaro, la battaglia c'è stata fin dall'inizio, nel senso che c'era qualche, come adesso, insomma, c'era qualche testa di cazzo, secondo me, che riteneva di dover fare la radio una qualcosa di particolarmente scelta inteso come che si rivolgesse solo a una particolare coscienza già matura, e quindi di non si curasse molto delle diatribe più spicce. Più. È una posizione che si diceva manco per il cazzo, la radio è questo, o è un qualcosa che si occupa e si cimenta nelle diatribe e tenta appunto di trovare una via d'uscita, eccetera, altrimenti non serve un cazzo, diventa soltanto una Una delle specie di organo di tante. partito sarebbe stato. Esatto, più o meno. E più o meno poi i problemi sono anche adesso, cioè io spesso adesso non mi trovo assolutamente d'accordo con l'impostazione della radio proprio per questi motivi, insomma, che non mi sembra una radio che sia molto legata a quello che vive realmente a livello proletario, a livello sociale, ma mi sembra più una radio fatta da intellettualità che estrinsecano, estrapolano, partono per la tangente e fanno quello che cazzo gli pare piace. Ho capito. Se, parliamo un po' della realtà sociale, nel senso, Movimento 77, tu in quanto lavoratore del Policlinico ci hai partecipato, che ricordi hai di di quell'anno? Ho dei ricordi da una parte pesantissimi, nel senso sacrificatissimi, perché facevamo un culo che non finiva mai. Praticamente dormivamo al policlinico, sui cartoni, nell'auletta, perché continuamente scioperi, picchetti, scontri con la polizia. Ma la cosa più viva e più fondamentale erano i rapporti umani, i rapporti fra lavoratori e le discussioni continue, l'assemblea. Tu considera che noi facciamo assemblee di 4-5 ore tutti i giorni, abbiamo fatto per anni, e quindi c'era un confronto su tutto, non solo sulla lotta, non solo su come gestire parti, sulla malattia, sulla prevenzione, sulla salute, ma sui modi di vita, sull'educazione, sulla religione, sui rapporti fra maschio e femmina, sui rapporti di educazione con i figli, sull'amore o non amore, proprietà, potere, non potere, proprietà privata, galera, internazionalismo, un po' su tutto, sulla storia del movimento operaio. Quindi, insomma, a me mi appassionava moltissimo questa capacità di discutere a 360 gradi tutto quello che vivevi e che sentivi come bisogno di chiarimento. Quindi per me la lotta al policlinico ha semplicemente rappresentato questo, cioè un grandissimo posto dove potevi affrontare qualsiasi cosa senza tabù, senza discorsi precostituiti, con persone che spessissimo non capivano, partivano da livelli assolutamente di non coscienza e si arrivava a dei livelli di impazzimento. Noi abbiamo trovato una quantità enorme di persone, anche anziane, eccetera, che di fronte a aperture sulla religione, sul matrimonio, sui rapporti col marito, con i figli, con la moglie, e praticamente metteva in discussione concezioni che aveva introiettato e che subiva per anni e che si liberava e impazziva perché tutti quelli che erano i punti di riferimento gli venivano meno. Quindi io una delle maggiori esperienze che ho è proprio l'impazzimento di molte persone che di fronte a discussioni che affrontavano di tutto in maniera, diciamo così, senza barriere, alla fine era disorientata, riusciva difficilmente a trovare l'equilibrio. No, pian piano poi chiaramente lo trovava, però diciamo l'impazzimento era una delle cose che all'inizio con cui ci scontravamo più facilmente, cui ci trovavamo di fronte, che constatavamo più facilmente. Senti, il giorno di Lama, voi lavoratori del Policlinico stavate lì alla Sapienza? il giorno di Lama, guarda, te l'ho detto le altre volte all'assemblea quando abbiamo fatto ultimamente, il giorno di Lama non era previsto nulla. Noi facemmo la sera prima un'assemblea a Lettere, nell'aula magna, l'aula prima di Lettere. Eravamo una trentina di persone, di compagni, fuori sede, un po' del collettivo di Lettere, un po' di studenti dei comitati vari. C'era stato Mordente, come si chiama, Bernocchi, Franco Russo, che avevano proposto le settimane prima, si ventilava questo incontro, questa venuta di un sindacalista, non sapeva che era uno della federazione all'università che era occupata in quel periodo. e si chiedeva qual erano, secondo, perché il movimento allora non era compatto, cioè c'erano da una parte il movimento, movimento, e dall'altra ci stavano i soliti intellettuali che c'erano, noi li chiamavamo gli 11, perché erano 11 persone che hanno firmato insieme a Enzo D'Arcangelo un documento che era un po' di mediazione col PC. E quindi questi degli 11 erano un po' venuti a cincischiare, eccetera, a cercare di capire, di sondare il terreno, diceva, se facesse parlare qualcuno del coso, che succede? Ma fa parlare qualcuno, dice, non lo so, insomma, se viene qua, chi viene viene, cioè, permette il dialogo, eccetera, dice, secondo noi, insomma, non credo che dovrebbe succedere niente, perché al di là del tifo, del coso, dello scemo scemo, dell'applauso, del coso, penso che tutto rientra nella dialettica abbastanza consolidata che c'è in quel periodo, insomma, quindi tutte le assemblee, tutte le discussioni, appunto, con echi notevoli di cori, eccetera. Loro tornarono dopo che avevano fatto riunione a Camera del Lavoro e ci dissero che loro avevano buttato la spugna, nel senso che avevano trovato una chiusura netta, insomma, rispetto a... Per cui io mi ricordo che la sera, dico, che cazzo facciamo? Che facciamo? Vediamo domani come si presenta la situazione. Noi cerchiamo di essere alla casa dello studente, di stare intorno, vediamo se questi occupano l'università, nel senso che non fanno entrare, si mettono nei cancelli, fanno venire la polizia, cioè, capito? C'erano parecchie cose indeterminate. Tant'è che io poi la mattina non mi fecero entrare, io che ero conosciuto, c'erano molti sindacalisti del policlinico che stavano ai cancelli, e quindi io provai prima a caso studente, poi a caso studente, poi sfondarono, eccetera, però nel frattempo mi ero fatto un po' tutto il giro e alla fine scavalcai il muro di cinta che stava fra l'angolo di via La Regina e via dell'università, insomma, vicino a medicina legale. Entrai così, insomma, altri uscirono appunto entrare da casa dello studente e poi appunto ma diciamo all'inizio non ci fu un cazzo, fu la scala del famoso pupazzo, lama stanno in Tibet, lama che lama, cioè, poi questi che tirano fuori gli estintori, i compagni che si incazzarono, quindi un po' di ma non c'era nulla di pronto, infatti non c'erano sanpietrini, non ci fu niente, insomma, come qua. Si usarono appunto l'estintore, i bastoni che derivavano dalla rottura delle transenne che c'erano portati quelli del PC, la federazione, assolutamente no. Ci fu proprio un sollevamento dovuto al fatto che di non volersi più far prendere per il culo. Cioè tu non puoi venire qua a dire che porti il dialogo e il coso, invece viene a imporre la disoccupazione dell'università, l'entrata del baronato, eccetera, senza minimamente affrontare con gli studenti quali sono le piattaforme di lotta, quali sono i bisogni, quali sono gli obiettivi. Non è possibile, te ne andiamo a fanculo. Se chi cazzo sei, non te ne frega un cazzo. Poi dopo di loro è arrivata la polizia, eccetera. Senti, quell'anno tantissimi cortei, cioè studiando, leggendo, almeno uno al mese, molto grosso e anche Ah, molti di molto. più, almeno una settimana, una mese erano le ricorrenze, quello che tu devi tenere presente, questo io lo dico continuamente, voi spesso che non avete vissuto quel periodo, vi diciamo andate alle fonti che sono i giornali, la stampa da allora, ma tieni presente che a noi, per esempio, all'otto del Policlinico non si cacava quasi nessuno, c'era un po' il messaggero che faceva il punto della contrattazione sulle richieste che facevamo, ma noi facevamo un corteo al giorno. Un corteo al giorno, andavamo al centro, dappertutto andavamo, e ci stavano gli studenti, i cosi fuori sede che rivendicavano continuamente il salario, continuamente l'agibilità, la poter studiare, il diritto allo studio. C'erano allora i soldati che erano, scioperavano, allora la leva obbligatoria, i PID, proletari in divisa, che appunto si muovevano in maniera alternativa, i pompieri, cioè ci stava una marea di situazioni in movimento, di incazzatura, come una marea di repressione, di atteggiamenti repressivi. Quindi quando si segue, quando voi dice il 70, guarda che il 71, il 71, cioè dagli anni, l'inizio del 70, dopo il 69, fino al 77, c'è stata un'escalation di movimento e di diciamo organizzazione, di scontri, coi fascisti, con quei padroni, eccetera. Quindi era una cosa in continuo, capito? Però chiaramente i giornali cercavano di minimizzare assolutamente, quindi quando non potevano far meno, e poi se ne interessavano sempre in chiave più o meno terroristica, in chiave più o meno scandalosa, mai in chiave di, appunto, di approfondimento, di conoscenza effettiva di quali erano le realtà, di quali erano le esigenze, di che cosa si muoveva nella coscienza della gente che lottava, che si incazzava. Però nel 77, diciamo, quando poi Cossiga inizia a vietare le manifestazioni, c'hanno tutta una serie di cortei anche molto violenti che tracimano chiaramente nello scontro con la polizia. Cioè, com'era il clima all'epoca? Che riordinavi quel clima? Com'era andare in piazza in una dimensione, diciamo, appunto, che, militarizzata? Allora, tieni presente che noi funzionava così ogni manifestazione. Noi c'eravamo l'attivo, ci facevano l'assemblea all'università. Si decideva all'università che tipo di manifestazione sarebbe stata. Pacifico di massa, una manifestazione... difesa, autodifesa, una manifestazione dura, una manifestazione comunque che andava dove voleva. C'erano delle formule chiare che solo chi non voleva capire non capiva. Dopodiché l'organizzazione, il funzionamento della piazza, eccetera, noi la facevamo in maniera assolutamente democratica, tra virgolette, cioè o un giorno prima alla casa dello studente o due o tre ore prima a Via dei Volsci, eccetera, si faceva l'assemblea pubblica in cui si decideva questa squadra fa questo, questa fa quello, e cerchiamo di dire qual era bottiglia, qual è quello, andiamo, qual è l'obiettivo, andiamo a quello, andiamo con l'ambasciata, a quel ministero, a quel covo del lavoro nero, a quella struttura repressiva, cioè questo era più o meno il tipo di cosa. E quindi poi si formava il corteo, chi preparava le bottiglie Molotov se l'aveva già preparato, se no c'aveva il posto dove le aveva nascoste, chi c'aveva qualche altro strumento, diciamo, fionde, cose, eccetera, c'aveva chi, quando c'erano momenti ancora più pesanti, come successe a San Basilio, a un certo punto a San Basilio, dopo che ammazzarono Fabrizio, facevamo una riunione là sul posto a San Basilio, si decise di andare a prendere anche un po' d'armamento, qualche candelotto di dinamite, e tirammo contro i poliziotti. Come anche il 12 marzo, no? Anche il 12 marzo dopo la morte di Lo Russo. Esatto. Sì, anche il 12 marzo o anche dopo l'uccisione di Mario Salvi al ministero, anche quello fu un'altra cosa che ci sconvolse molto, insomma, cioè ogni morte di un compagno per noi era una tragedia, insomma, quindi lo vivevamo in maniera pesantissima, e quindi, diciamo, in quei momenti prendemmo delle decisioni anche un po' più, diciamo, difficili, ecco. Senti, pensate a posteriori, secondo te è stata la cosa giusta quella di cercare di reggere lo scontro con lo Stato in quel momento? Ma cioè... noi non pensavamo ad andare allo scontro con lo Stato, noi pensavamo di aumentare gli spazi di movimento, di aumentare l'agibilità, quindi laddove ti veniva impedito andavamo a colpire direttamente chi te lo impediva, quindi per noi questa idea dello scontro, questa era una cosa che poi hanno mutuato le organizzazioni combattenti, che in quel periodo là non contavano un cazzo, erano quasi un qualcosa così, diciamo, non vorrei usare delle parole brutte, ma diciamo quasi di tifoseria, nel senso che non c'era una sostanza concreta, cioè i movimenti combattenti, cioè, diciamo, clandestini, per noi il solco passava fra clandestinità e luce del sole. È vero che noi non dicevamo io ho tirato una bottiglia Molotov, io ho bruciato la casa, io ho messo a fuoco la sede dei fascisti, ma dicevamo il movimento ha fatto questo e per noi è stato giusto, e noi lo rivendicavamo in assemblea pubblica, capito? La differenza stava in questo, che là dove tu non potevi rivendicare la azione, rivendicando una paternità, ma dovevi di boh, non so, non lo so chi è stato, provocatori, per noi quello era, significava la fine, perché significava che tu non avevi la capacità di né gestire quello che avevi fatto, né essere in grado di difenderti dalla forza repressiva cieca dello Stato. Quindi per noi il binario era stretto, era strettissimo. O tu eri in grado di gestire, vincere la repressione, fatti andare, metti in galera, ma fatti liberare abbastanza presto, eccetera. Considero che io personalmente ho fatto 8 mesi e mezzo di galera per l'occupazione di un asilo nido al Policlinico, gli altri, Graziella, Coso, Sandro di Portuense, eccetera, hanno fatto 5 mesi, 6 mesi per un comizio di Rauti a Monteverde, che furono incarcerati, cioè, quindi avevamo delle condanne esemplari allora, per cazzate, insomma, capito? Ci tennero dentro senza motivazione, però alla fine scoppiarono tanti, cioè, a metà dei magistrati di Piazzale Clodio, degli avvocati, firmò delle istanze contro i giudici che portavano avanti queste inchieste. C'eravamo un collettivo di lavoratori dentro Piazzale Clodio che era enorme, era fatto di cancellieri, di lavoratori della giustizia che ci sosteneva in maniera spada tratta, che riteneva che la nostra impostazione di lotta era quella giusta, perché tutti poi passavano per la sanità, avevano bisogno dei servizi, dell'Enel, del telefono, del coso, e quindi sta cosa del pagamento anche delle spese sociali intese come rapportate al salario era un obiettivo condiviso da tutti quanti i lavoratori salariati e dalla stragrande maggioranza, quindi erano tutti a favore, insomma, di questa impostazione, e quindi loro erano costretti alla fine di mollare la presa, capito? Quindi noi questo era il coso. Laddove tu invece ti rendevi, per esempio, ti faccio un esempio, ma sai Moro, noi quante volte l'abbiamo preso al Policlinico, perché Moro veniva a visitarsi al Policlinico prima che lo sequestrassero e lo ammazzassero le biere. Noi l'avevamo preso 4-5 volte al Policlinico, veniva, noi facevamo i cortei interni da oggi, cioè contro i malati nei cessi, gli ambulatori che venivano fatti pagare anche se tu ci avevi la mutua, perché loro, i baroni, ritenevano di avere una medicina super cazzuta, ed era veramente una cosa vergognosa come adesso. E quindi praticamente Moro veniva là a visitarsi in clinica medica da Cassano, noi ci avvertiva qualcuno, è entrato Moro con una 131, allora c'era una macchina blu, noi lo circondavamo, lui usciva, ci mettevamo con un megafono, ma ha visto, guardi, oggi qua, ha visto che nel reparto dove lei va ci stanno gli ammalati che stanno alle camere a pagamento, che la monaca le serve con il piatto e con i guanti, mentre invece nella corsia c'è lo sgommarello con la gavetta, insomma, e quindi dice, ma si rendi conto, questo è classismo, ma lo Stato non può permettere questo. E lui stava là, ti guardava con sta frezza bianca, non parlava, io mi ricordo una delle battute che facevo spessissimo al megafono, l'onorevole è indisposto, tutti a ridere, insomma, come se ci avesse in estrazione. Cioè, quindi diciamo, una situazione effettivamente, diciamo, che noi praticavamo in maniera costante, capito? Questo tipo di capacità di battere in faccia alla controparte la realtà che c'era, con cui c'avevamo a che fare. Loro invece praticamente i BR, l'impostazione che davano a queste cose era assolutamente un qualcosa di indefendibile, ingestibile, se non con comunicato clandestini. Per noi la clandestinità significava la fine della possibilità vera di conquista del potere a livello di base, perché per noi conquistare il potere con una struttura organizzata e una struttura che poi dovesse ristabilire dei sistemi di repressione o dei sistemi, diciamo, che non si basava sul convincimento della gente, per noi era una sconfitta. Quindi noi non condividevamo assolutamente questa impostazione, quindi anche in galera ci siamo scontrati pesantemente con l'impostazione del BR. Mentre erano molto meno chiari su questo quelli che dicevano fa parte dell'autonomia operaia a livello, no, quindi i Negriani e cosa, anche Oreste, Scalzone, eccetera, che ci schiavano un po', stavano un po' da una parte, un po' dall'altra, saltavano un po' da qua, un po' da là, ma che praticamente non prendevano mai una posizione netta, mentre noi su questo eravamo chiari e netti, e io penso che lo siamo stati fino in fondo, sempre, anche su Radio Onda Rossa, per esempio. Noi a un certo punto, su alcune azioni dell'IBR, ci scontrammo con degli editoriali che faceva l'allora direttore, che praticamente riteneva di spingere la gente all'insurrezione quando c'erano delle azioni eclatanti dell'IBR. Dietro la Trentin. Sì, Giorgio. E noi diciamo: Gio, secondo noi stai dicendo cazzate. Lui rivendicava la sua autonomia come direttore della RAI, ma noi diciamo: secondo noi questa è una cazzata. Secondo noi questo non va bene, non va bene, non è Radio Onda Rossa come lo volevamo noi. Per noi Radio Onda Rossa lo devi far tirare fuori alla gente, al co tu certo come giornale radio dai il tuo giudizio, però la nostra impostazione, la nostra diciamo così, forma di lotta e strategia di lotta la dobbiamo far venire fuori dai dibattiti con chi ci ascolta, perché la radio è di chi ci ascolta. Questo era per noi allora. Senti, le difficoltà quando iniziano? Cioè il cosiddetto riflusso, no? Cioè quando è Le che... difficoltà iniziano dopo l'uccisione di Moro in maniera eclatante, cioè, per me la questione, ma era cominciata già prima, nel senso che quando l'insurrezione non si amplificava, quando il livello territoriale non assumeva dei contorni, diciamo, quasi di zone liberate, il che fare era un grosso problema, il che fare era un grosso problema, perché sia il salario sia appunto e allora la convinzione era che appunto l'insurrezione ci sarebbe stata di lì a poco, cosa che poi non si verificò. Un'altra delle cazzate che facemmo, il rifiuto del lavoro, non era un concetto di voler rifiutare il lavoro in quanto tale, ma era il rifiuto del lavoro salariato, quindi di non voler far continuare a ingrassare il padrone, lo sfruttatore, eccetera, sulle spalle del lavoratore, ma metterlo in crisi al punto tale da farlo arrivare a un collasso, in modo che non convenisse più investire o produrre col sistema capitalistico. Quindi le analisi economiche che facevano i migliori compagni allora parlavano di un capitalismo al collasso che da lì a pochi mesi sarebbe scoppiato, cosa che poi non si verificò, come non si verificò l'insurrezione massiccia di grandi fette popolari, di grandi masse popolari. L'IBR appunto, secondo me, poi subentrarono pensando che con le azioni eclatanti questa cosa si verificava invece di peggio in peggio, quindi poi prese il sopravvento a livello repressivo, quindi tu alla fine cominciavi a dover sospettare, essere assolutamente, diciamo, desolidarizzato nei confronti degli altri compagni, e quindi questo è diventato poi un avvitamento su se stessi che ha portato alla fine degli anni 70, insomma, quindi alla fine di una strategia di lotta. Poi è ricominciato tutti con i centri sociali, con la musica, ma gli anni 80 hanno significato la desolidarizzazione dei compagni, la non fiducia più l'uno con l'altro, la incapacità ad avere un rapporto di gestione del movimento di insubordinazione, del movimento di contrasto col capitalismo, e quindi ha dovuto ricominciare tutto da capo. Però i comitati operai hanno continuato Sì, a hanno fare lotte, continuato a sono sciolti mantenere, negli ma anni perché 90, noi, no? sì, ma perché noi come posizione non è che avevamo posizioni, non avevamo scheletri nell'armadio, cioè le nostre posizioni note, quindi poi il nostro convincimento era di fondo, noi non è che abbiamo avuto pentiti, capito? Noi, le persone che sono state con noi, che pensavano di andare tramite noi a fare delle azioni di clandestinità, eccetera, alla fine si scontrarono con se stessi, perché capirono che con noi non c'era proprio assolutamente questo spazio e questa voglia e questa strategia. Quindi, e noi restammo che li eravamo, certo qualcuno tirò i remi in barca, si dedicò più a cose intellettuali o alla famiglia o quello che cazzo restava dei rapporti umani, ma i rapporti sociali, i rapporti di cosa sono rimasti uguali, perché chiaramente con un livello di rispondenza e di diffusione assolutamente ridimensionato, assolutamente ridimensionato. E appunto io quando ci sono adesso queste rievocazioni degli anni 70, da una parte mi danno, fanno piacere che ci sia ancora qualcuno, ma dall'altra mi fanno incazzare molto perché esaltare delle cose senza metterne in evidenza le negatività o i livelli su cui poi non si è potuti andare avanti, non si è avuti la capacità anche teorica di smontare alcuni postulati, secondo me è da imbecilli, è da assolutamente da persone che non hanno il coraggio di fare i conti con la realtà e con se stessi. Secondo te ci sono stati degli errori vostri anche in come è andata a finire, insomma, Come? ci sono stati degli errori da parte vostra anche in Ma come è andata. certo ci sono stati degli errori, ti ho detto, il fatto che noi non abbiamo gestito lo spazio che liberavamo, che, non libera, che il livello di potere che avevamo non lo capitalizzavamo, in senso appunto sociale e cosa, non certo come punto di vista capitalistico. E non facciamo crescere, tipo. Noi abbiamo paura a inserirci nei meccanismi della produzione, nei meccanismi anche del soddisfacimento dei bisogni che non fossero quelli di, così, di cazzate. E quindi io mi ricordo che noi assaltammo i mercatini rossi quando allora ci furono dei tentativi dei compagni, degli agricoltori che erano appunto su impostazioni di agricoltura alternativa, che noi dicevamo che creare dei prodotti a basso costo fatti in maniera buona significava allontanare la coscienza della gente come incazzatura contro il capitale, contro l'inquinamento, contro. E quindi dovevamo invece mantenere la situazione di invivibilità per poter far incazzare la gente. Cazzata enorme. Oppure il discorso del rifiuto del lavoro. Noi, cioè, c'erano alcuni che praticamente teorizzavano il fatto che lui va a lavorare per esempio, in un posto come il nostro, un ospedale, tu vai a lavorare, cioè, no, io non vado a lavorare. Certo, non devi lavorare per barone, mica ti dico che devi andare a fare l'autista per il barone, devi andare a fare il cameriere o devi fargli il marinaio o andare a lavorare con lui, ma il cazzo l'ha ammalato, il culo glielo devi pulire, se ti suona il campanello. Devi sentire quello che dice, devi far aumentare il personale, devi assolutamente dargli una mano a sopportare, anche se non è medicina preventiva, è medicina curativa, ma comunque, cioè, ma noi non possiamo svolgere il ruolo di chi si ammala nella catena di montaggio, noi lo attoppiamo e lo rimandiamo nella catena di montaggio, noi dobbiamo chiudere la catena di montaggio e fare in modo che il malato eviti di ammalarsi. Certo, giustissimo, ma fin quando che tu non distruggi la catena di montaggio, c'è cioè quel poveraccio che è rimasto inculato dalla catena di montaggio, tu gli devi dare una mano a uscirne fuori. Casomai gli metti la coscienza per poter far zompare la catena di montaggio quando ci arriva a lavorare, ma tu lo devi curare. Capito? Questi equivoci del cazzo che ci siamo portati avanti per tanto tempo, uno dell'emblema nostro era quello lì. Lavorare con lentezza, non fare alcuno sforzo, mettiamo sempre questa cosa, e poi alla fine diventa un emblema di che? Del paraculo che fa un cazzo e poi fa lavorare gli altri al posto tuo, capito? È assolutamente inconcepibile questa cosa. E senti, tu non vedi un momento di ripresa, cioè, che ne so, il terremoto, il No, io ne ho nucleare, visti cioè. tanti movimenti di ripresa. Io quando sono uscito di galera poi ma dopo Genova, col Social Forum, con la Pantera, con il movimento degli studenti anni 70, l'Onda, eccetera, ci sono stati grandi tentativi. Solo che ogni volta questi cazzo di tentativi non sono falliti perché non si espandevano, ma sono falliti per i testa di cazzo che andavano là a imporre la linea giusta, secondo loro, quindi a cacciar via le persone che non avevano il pedigree. L'analisi politica corretta, anticapitalista e antisurrealista fino al 100% dei cromosomi, e quindi dividevano il movimento, creavano, cacciavano via tutte le persone nuove che si avvicinavano per mantenersi in quattro gatti e piangersi addosso. Questa è, secondo me, una delle peggiori logiche che ci portiamo avanti. È una delle cose che io proprio mi incazzo continuamente. Quando le vedo, come si paventano le cose, mi mandano in bestia. Io vedi, ho sempre ritenuto che la nostra esperienza pregressa non dovesse servire a dirigere un cazzo, ma dovesse servire a fare l'azione di base militante in maniera la più corretta possibile e fa in modo che i compagni nuovi che nascevano e avevano l'esigenza di ampliare, di organizzare, partissero dalle cazzate che abbiamo fatto noi. Cioè che noi gli dicessimo: guarda che se fai così ti ritrovi come ci siamo trovati noi, quindi fai in quell'altro modo, ma non dovesse essere noi così. Io ho teorizzato questo, infatti credo che tu difficilmente mi trovi alla radio o a parlare nelle assemblee pubbliche generali, raramente, rarissimamente, proprio quando non ne posso far meno. Ma per il resto io ritengo che noi dobbiamo fare il lavoro di base, dobbiamo fare il lavoro da militante politico di base, se vogliamo veramente, se abbiamo veramente fatto tesoro della lezione degli anni 70 e della nostra militanza. Senti, nel 78 c'è una grandissima vertenza degli ospedalieri, no? Come andò quella vicenda? Cioè comunque era anche un anno difficile, no? Appunto il clima moro e tutto quanto. Era un anno difficilissimo, che però appunto i risultati che abbiamo ottenuto al Policlinico di Roma si centuplicarono, nel senso che tutti gli altri ospedali ritennero corretto l'impostazione che noi avevamo dato sui turni di lavoro meno intensi, sull'ospedale che appunto dovesse essere gestito in maniera alternativa anche agli operai. Tu considera che noi siamo stati il primo ospedale che ha applicato la legge sull'aborto e in quel caso là abbiamo fatto noi la gestione del repartino, capito? Come anche Graziella ultimamente siamo visti a Cosenza, ha detto sì, io ho fatto tesoro anch'io di queste cose, tanto è vero che per esempio neuroinfantile adesso la gestiamo il più possibile dal basso e dal bene. Diciamo che in quel periodo là ci fu un exploit, però il plan non partì su tutti quanti i settori, ma solo sull'ospedale, e quindi questo non sfociò in una incazzatura generalizzata, capito? Fu limitato agli ospedalieri, che poi man mano fu ripreso, ma là per là appunto ebbe un grandissimo risultato. E poi ti ho detto, la botta del coso di Moro fu micidiale perché poi non era tanto il concetto, perché poi c'è anche sto discorso sballato in mezzo a noi. Cioè io ritengo di avere una posizione politica corretta, no? Nel mio cervello, col mio gruppo, con le persone con cui faccio militanza politica, e ritengo di applicare la linea giusta. Ma la linea giusta di muovermi bene, ma la correttezza mia non è che io la tramando o la passo agli altri in maniera, diciamo così, con la radio, con le esperienze, divulgando, no, imponendo agli altri che fa, deve fare come faccio io. Ma che cazzo, ma come cazzo ti permetti? Ma tu chi cazzo credi di essere? Gli altri fanno, se non condividono quello che tu fai, fagli fare quello che vogliono fare loro, poi da raffrontare, se loro arrivano prima all'obiettivo rispetto a te, sei tu che devi prendere, ma tu non puoi imporre all'altro. Noi invece impostammo questa cosa, uno dei effetti maggiori, che la nostra, una volta che noi abbiamo preso una idea, la dobbiamo imporre a tutti. Guai, chi non si muove secondo la nostra logica è un controrivoluzionario, è un arreso, è uno che va eliminato, è uno che comunque non merita quasi anche neanche più il rispetto. È quello che fecero i brigatisti con noi quando andammo in galera, che siccome non eravamo d'accordo con la clandestinità, non eravamo d'accordo con le azioni armate, noi... E quindi da lì poi nacque l'area omogenea, nacque in forma di associazione dipendenti, cosa che noi come autonomia operaia non facevamo, no, autonomia operaia vera, parlo via De Volci, parlo appunto dell'esperienza romana, non aderimmo mai, non partecipammo mai, restammo coi comuni, noi andammo nei bracci dei comuni, non nei bracci dei politici, facciamo di tutto per metterci insieme ai detenuti normali e lottare con loro sulla quotidianità, su quello che era il rapporto, rendere il carcere il più vivibile possibile. Anche su quello fummo attaccati enormemente dai brigatisti, per esempio ci fu un periodo a San Vittorio, l'ora d'amore, l'ora della socialità, eccetera, i brigatisti ci attaccarono dicendo che guai a chi pretende di mettere le tendine rosa al carcere, di fare in modo che il carcere non sia una contraddizione per il proletariato. Il carcere deve essere assolutamente coercitivo, assolutamente punitivo, perché così la gente si incazza e gli viene voglia di fare rivoluzione. Sì, col cazzo, di fatto abbiamo visto. Allora addirittura un periodo, io mi ricordo, dopo Trani, teorizzarono il fatto di far arrestare tutti i parenti dei detenuti. I detenuti, quando venivano a fare il colloquio, i parenti dovevano menare guardie, sfasciai con i vetri in modo da farsi arrestare, in modo che così aumentava enormemente la popolazione carceraria e si creava l'incompatibilità col potere. Un pezzo di cazzo, quelli hanno aperto, massacrato tutti bene bene, e la maggior parte si pentiva, quindi diventavano pentiti e votavano, capito? Quindi tutto l'opposto, altro che quello che è stato. Ecco. Quindi io dico, dalle esperienze che noi abbiamo fatto, c'è tutto, le cose come uno. Quindi noi dobbiamo semplicemente sapere, innanzitutto dire la verità quando facciamo i record, come dice i record, ho detto una cazzata, i ricordi, le sì, commemorazioni, le commemorazioni del cazzo, insomma. Quindi avere il coraggio di scendere nel profondo, di ammettere appunto quali erano le contraddizioni, quali erano i dilemmi che ci trovavamo di fronte e poi appunto le non soluzioni che trovavamo, in modo che chi si trova in situazioni simili possa trarne beneficio. E poi appunto capire che laddove ci sono situazioni che si muovono a livello di massa, farle ampliare e non richiuderle. Non riportarle a cose, sì, ma è lungo un cazzo, cioè, ma fai, prende coscienza. L'unica forma di società che può vive da sola senza dittatura del quadro politico, senza il dirigente, è quella società che ha in sé un equilibrio derivante dalla condivisione dal basso. Se non c'è condivisione dal basso, se non c'è coscienza dal basso, non c'è possibilità di un equilibrio in grado di mantenere in piedi la società alternativa che tu vuoi costruire. Quindi è solo questa la garanzia che il risultato si ottenga in maniera definitiva. Altrimenti devi solo pregare che te inculano, che te massacrano, che catene, perché il proletariato, se c'ha da perdere soltanto le catene, alla fine non fa un cazzo, perché le catene, nel momento in cui non c'è più le catene, non sei più proletariato e te la pigli nel culo. E non esiste questo, questo è un concetto assolutamente sballato, contro cui noi dovremmo combattere. Senti, in carcere, cioè come ci si organizzava? Cioè, c'erano contatti con l'esterno, si riusciva a portare avanti delle lotte reali con i detenuti? Com'era l'esperienza del carcere, insomma? Il carcere considera che le contraddizioni che ci stanno fuori sono centuplicate all'interno, la divisione di classe, le divisioni sociali, le divisioni intellettuali. Però considera questo, che l'umanità che trovi in carcere non la trovi fuori, perché in carcere tu non è che puoi dire, sai, quello mi sta sul cazzo me ne vado, stai là in cella, guarda, ci devi stare per forza un giorno, due giorni, 24 ore, un mese, un anno, due anni. E là c'hai continuamente, diciamo, necessità di affrontare l'umanità in tutti i modi, da tutte le faccettature, da tutti i punti di vista. Quindi i rapporti sia, diciamo così, affettivi, sia individuali, sia di bisogni, cioè ti devi sapere pulire il culo, ti devi sapere lavare la roba, o se tu sei uno che non ha mai fatto un cazzo, non puoi stare sulle spalle della famiglia, ti devi dare da fare, ti devi anche essere autonomo, garantirti anche la sopravvivenza in carcere, o col cibo della casanza, oppure facendo qualche lavoretto o qualcosa, ma devi anche saperti garantire la sopravvivenza, capito? Quindi anche queste cose in carcere le mette in evidenza in maniera molto molto più acuta e molto più rapida di quanto non avvenga fuori. Quindi io ritengo che il carcere vada abolito in quanto tale, come elemento, diciamo, di rieducazione che non riede con cazzo, ma il carcere fin quando c'è, secondo me, andrebbe conosciuto bene da tutti quanti, proprio perché per farlo abolire, per far creare delle alternative reali anche di fronte a deviazioni, a comportamenti non confacenti alla totalità delle persone, e quindi per trovare anche dei sistemi alternativi, per elaborare dei funzionamenti alternativi, capito? Quindi niente. Senti, 7 aprile 79, a Roma che impatto ha avuto? Cioè, ci sono stati gli arresti anche a Roma, voi come l'avete vissuta, cosa avete fatto, come vi siete organizzati? Noi l'abbiamo vissuta come un grande attacco, appunto, a quello che allora era la situazione dell'autonomia, e che secondo noi hanno cominciato dai padovani, perché là il terreno era più fertile, perché avevano fornito un po' più il fianco a delle cazzate, che c'erano state un po' delle azioni molto poco chiare, insomma, no? Rispetto al funzionamento dell'autonomia. Comunque chiaramente poi là appunto si inventarono di sana pianta tutta l'inchiesta, il telefonista dei Biero, tutte queste cazzate. Fu per il Partito Comunista quello che aveva tentato di fare Roma, che però non era riuscito. Noi ci abbiamo avuto un magistrato che si era suicidato, Zamparella, a cui il PC voleva far fare l'azione tipo 7 aprile, e lui si rifiutò, non fece non aprì il processo per insurrezione o per banda armata nei nostri confronti, Zamparella, e là invece Calogero attuò questa cosa del Partito Comunista. Quindi a Roma non si verificò la stessa cosa, perché con questa cosa dei missili, no, io glielo dico sempre ai compagni, voi non potete rompere il cazzo, perché noi con questa cosa dei missili, è vero, fummo un po' sprovveduti, tra virgolette, ma perché noi la cosa dei missili la facemmo non certo perché il nostro livello di armamento nei confronti dello Stato era arrivato ai missili terra-aria, ma perché noi in un'azione di solidarietà con i palestinesi, completamente fuori dalla nostra possibilità di scelta, demmo l'apporto di aiuto, eccetera, lo demmo appunto in maniera come al solito non calcolata, e quindi non è che noi c'avevamo i manuali e c'avevamo i dirigenti, noi facevamo tutti, faceva sia il manuale sia il dirigente, ognuno di noi faceva qualsiasi cosa bisognava fare in quel momento. Quindi, e siccome invece per potere noi rappresentavamo i dirigenti, quindi il fatto che dalla Chiesa mise le mani su di noi eliminò l'azione, fu una provocazione tipo il 7 aprile nei confronti dei compagni di Roma. Quindi noi abbiamo detto: guarda che noi abbiamo salvato il culo, perché abbiamo fatto da parafulmine di fronte all'azione che invece hanno fatto a Padova, capito, nel resto d'Italia. Siete fatti qualche anno di carcere per quella storia? Come? Vi siete fatti qualche anno di carcere per quella storia, no? Quanto. Ho fatto parecchio carcere, 3 anni e mezzo di carcere continuo, poi semilibertà, poi insomma Tunieri e confino, poi Baumgartner, giusto? Nieri, Baumgartner e Abusalè. Abusale. Ok. Credo che abbiamo detto un po' tutto, Sì, qualcosa sull'80, perché poi finiamo solo con quell'anno lì, no? no? Sì. Dell'80, la cosa che principalmente ci si ricorda di studio è la vertenza alla Fiat, no? Voi all'epoca avevate idea che sarebbe, che era una Ma io cosa. veramente stavo in galera quel Ah, periodo. ok, quindi. Stavo in galera e mandavo continuamente ai compagni delle lettere in cui dicevo: raga, guardate che purtroppo qui te ne rendi conto ancora di più. Noi non possiamo fare lo sbaglio di partire per la tangente. Noi dobbiamo, e non dobbiamo imporre agli altri l'impostazione politica. Noi dobbiamo portare avanti la nostra impostazione. Se gli altri si vogliono uniformare, lavoriamo con chi vuole lavorare con noi. Non rompiamo il cazzo a chi non vuole, cioè non dobbiamo imporre la nostra. Mi venivo preso per un matto, per uno che quando facevano gli attivi alla Magliana, diceva: beh, ma Daniele oramai si sa, pensa così perché sta in galera, sa, la galera deforma un po' il cervello dei compagni, il cazzo. Poi appena entravano in galera, dicevano: ah, Daniele, no, scusa, c'hai ragione, hai ragione alla minchia, dico, c'avevo, stronzi, tanto stavate fuori, aveva. Noi potevamo riprendere in piedi. Prima non passare per tutti quanti i livelli di crisi e di cose, quindi ricominciare da capo. Potevamo mantenere la nostra impostazione perché era giusta, era corretta, potevamo ancora mantenere tutto sommato una compattezza e una capacità diciamo di perlomeno di resistenza e poi di allargamento, non di dover azzerare, annullare e ricominciare poi appunto ex novo. Senti, le lotte degli ospedalieri, per quanto vanno avanti ancora? Ma Cioè, le al lotte ospedaliere sono continuate, policlinico quantomeno. continuano ancora adesso, solo che il problema qual è? Che l'ospedale, se tu non lo riesci a far funzionare in maniera alternativa, riesci a ricavare degli spazi minimi, delle vittorie piccole, ma il funzionamento verso la privatizzazione, verso appunto la medicina assolutamente delle case farmaceutiche, verso la libera professione dei medici contro la salute vera, va avanti in maniera inesorabile, capito? Continua ad andare avanti, nonostante appunto la dedizione, la volontà ancora i compagni adesso come cobra, cosa si muovono, se danno da fare, ma i risultati secondo me sono assolutamente scarsi. Beh, all'epoca con quel ciclo di lotte riuscite a ottenere Cazzo, delle importanti teneva, ti ho vittorie, no? detto, c'eravamo la maggioranza, non solo romana, ma addirittura nazionale. Appunto, ti Anche in ripeto, termini pratici, avete fatto saltare le certo, camere a ma ti ho detto, noi non pagamento, riuscimmo una turnazione a migliore per mettere a gli frutto queste infermieri. cose, con la sua formazione, su tutto. Facemmo sta cazzata e lo dobbiamo dire. capito? Perché se no non ti rendi conto, uno non si rende conto, ma come, c'aveva tutto in mano e poi un pezzo di cazzo, che cazzo avete fatto? Dei coglioni, dobbiamo dire, dobbiamo ammetterlo, siamo stati dei coglioni, perché appunto facciamo questa analisi che se facciamo funzionare a servizio del coso in maniera ottimale, togliamo le castagne dal fuoco al capitale, e questo non facilitava la rivoluzione, la presa del potere, ma l'allontanava, e lo dobbiamo ammettere. Cazzate. Beh, a parte di questi errori, diciamo, pure la repressione ha giocato un suo ruolo, insomma. Certo, ma la repressione non ha giocato il ruolo perché era forte lo Stato, perché eravamo deboli noi. Sulla nostra debolezza ha avuto la vittoria alla repressione, altrimenti non avrebbe vinto un cazzo, non glielo avrebbe fatto assolutamente. Va bene, no, mi sembra che più o meno sia tutto. Ma tu questa cosa fagliela sentire Alessandra, che mi sta rompendo il cazzo dalla radio, intervista, cosa che doveva fare, io l'avevo cambiata, l'avevo fatta. Se gli va bene può fare questa qui, a me mi sta bene. Tu c'hai rapporti con Alessandra? Allora, come si chiama? Cristina, forse. Cristina, scusa. Sì. Eh? Sì, la conosco. Allora, glielo fai sentire per cortesia. Perfetto, sì, glielo mando. Glielo mandi, dici, guarda Daniele, dice, se questo qui ti può andare bene, prendi. Va bene. Questo.